Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. La prima cosa che le ha fatto, che è una grandissima cosa, è accettare lo status del padre e del fratello, che erano dei mafiosi. Una volta che l'ha accettato e ha capito l'importanza della testimonianza, ha accettato questa situazione e ha, come diceva zio Paolo Borsellino, ha sentito il fresco profumo della libertà. Pieraiello ha la determinazione di una combattente, sguardo fiero e voce decisa, qui modificata per ragioni di sicurezza. Come per sicurezza, Top Secret è il suo nuovo nome, la sua residenza e i suoi spostamenti. Sì, perché è contro la mafia che da quasi 20 anni Piera combatte e contro il vuoto che la mafia crea intorno a sé. Cosa Nostra, Piera l'ha conosciuta molto da vicino, nella sua stessa casa, e poi ha cominciato a denunciarla, diventando testimone di giustizia. Percorso seguito da un'altra donna di famiglia, Rita Atria, sua cognata. Rita e Piera decisero di non accettare la vita del padre, del fratello, del marito, di non tacere davanti alle faide che si consumavano e davanti ai traffici di droga che si pianificavano. Rita e Piera decisero di diventare due ribelli e raccontare quello che avevano visto. Da testimoni di giustizia sono andate incontro al ribaltamento della loro esistenza, alla pressione dei processi, alla paura delle minacce e al cambio di identità. Incontrarono Paolo Borsellino nella loro strada e quel legame col giudice fu talmente forte che Piera ancora oggi lo chiama zio Paolo, mentre Rita non seppe andare avanti dopo la strage di Via D'Amelio e poco dopo si tolse la vita senza riuscire a trovare pace neanche dopo la morte. Anche in memoria di Rita Atria, Piera Aiello porta avanti la sua faticosa battaglia a tutela dei testimoni di giustizia, ma lo scorso aprile la sua copertura è saltata e la località dove vive, sotto nuova identità, è stata svelata, denuncia attraverso l'associazione Rita Atria che presiede, da due forze dell'ordine. Circa un anno fa io ho avuto dei sentori che stava succedendo qualcosa. Quando ho capito che c'era qualcosa che non andava, ho contattato il maresciallo del posto e ho raccontato le mie paure. Poi dopo un anno ho avuto conferma. La cosa che mi fa più stare male in tutta questa situazione è solo questa, che ho lottato 18 anni per rifarmi una vita, famiglia, lavoro, non essendo mai aiutata dagli uomini che pretendono di rappresentare lo Stato, perché io nello Stato ci credo, ci crederò sempre. Non credo nelle persone che vogliono gestirci. Un testimone ha bisogno di essere accompagnato a nuova vita, non ha bisogno di essere gestito. Quando ho appreso mano a mano questa vicenda e ho comunicato ai veri organi competenti, quantomeno mi aspettavo una telefonata per essere convocata, per dire scusa, c'è qualcosa che non va. Invece ho vissuto per 40 giorni una vita non vita, ritornando indietro a 18 anni, dove anche se mia figlia apriva la porta, urlavo che doveva chiedere chi era perché dovevo, prima di aprire la porta, dove io non uscivo più. Ancora attualmente, cioè, mi sto limitando alle mie uscite, non stando più insieme alla mia famiglia per il terrore che se mi succede qualcosa possono avere anche loro delle ritorsioni. Mi sono estraniata, ma non è altro che un senso di protezione verso i miei familiari e dalle persone che ritenevo che mi dovevano stare accanto c'è stato un silenzio mortificante. Ma lei si è data una spiegazione di come sia potuto accadere che un testimone di giustizia venga a sapere che la sua copertura è saltata? Diciamo che noi testimoni non è che abbiamo tantissime protezioni. Diciamo che le protezioni ce le abbiamo quando ci spostiamo dal luogo dove risiediamo, quando andiamo nei tribunali. Io in 18 anni tantissime persone non le ho assolutamente avute. Diciamo che in questi 18 anni mi sono autoprotetta, perché nel luogo dove risiedo io sono una comune cittadina come tutti gli altri. È uscito fuori questa notizia soltanto da due persone che sì, sono nell'arma dei carabinieri, però nello stesso momento io non li ritengo neanche degni di essere dei carabinieri, perché io, i carabinieri che mi scortano, le persone che mi sono state vicine negli anni, sono le persone persone splendide, delle persone che sono state la mia famiglia, e adesso ho imposto che voglio e continuo ad avere i carabinieri, perché io non ho nulla contro l'arma. Io ce l'ho contro quei due personaggi che per sciacquarsi di bocca, perché non posso capire se gli puntavano la pistola addosso, ma per parlare del personaggio, rovinare l'esistenza di una persona dopo 18 anni di fatica, questa cosa mi sta un po' più stretta. E il non essere creduta dagli organi competenti, perché quando io ho avuto notificato dalla commissione la lettera che loro apprendevano che io avevo detto questa cosa, ma che era da verificare, cioè se io sono una testimone attendibile negli atti processuali, perché mi dovevo inventare una storia dopo 18 anni e mettendo a repentaglio la vita mia e dei miei familiari? Non aveva senso. Tu cerchi l'aiuto di persone che ritieni che si devono occupare della tua sicurezza, ma in realtà si ti girano le spalle, delegando gli organi competenti, cioè magari il prefetto del posto, che si vede arrivare questa meteora, deve decidere della mia vita e quella dei miei familiari, così. Lei si sente insicura? Nel suo comune di origine e di nascita ci sono ancora anche i suoi documenti con la sua foto. Si sa che la mafia non è che si fermi davanti a ostacoli così. 18 anni che comunque, in tutta la tragicità della situazione, vivo con molta serenità. Io sono una persona fondamentalmente serena, non ho paura. Perché se fisicamente mi fanno qualcosa, come l'hanno fatta mio marito, quello in due minuti non ha capito più niente, sono sicuro che non ha neanche sentito dolore al momento che l'hanno ucciso, perché l'ho vissuta a pochi metri da me. Sinceramente mi fa più male pensare che non sono protetta adeguatamente, che i testimoni vengono boicottati perché non sono la sola, perché dopo che fuoriesce dal programma viene definito ex testimone, ma solo nella carta in realtà, perché poi alla fine se mi devo spostare devo chiedere protezione. L'unica cosa che non sono più nel contesto della protezione vera e propria è perché non mi danno più la paghetta mensile per mantenermi, ma perché ho deciso di fare la mia vita. Che il dottor Mantovano dica che io sono un ex testimone me lo deve provare, perché io penso che se siete testimone lo sei per tutta la vita, specialmente nelle condizioni in cui mi trovo, perché se adesso dopo 18 anni ci sono di nuovo problemi di sicurezza, cioè io sono comunque una testimone. A Pierra la mafia uccise il marito, Nicolò Atria, davanti ai suoi occhi. Ma già da prima Pierra sapeva da quale parte stare, quando il marito la picchiava per le sue ribellioni alle leggi di casa, quando ancora prima pensava di diventare poliziotta. Sì, praticamente nella cultura mafiosa non ci sono mai entrata in quell'ottica, tant'è vero che negli anni, anche incinta di 8 mesi, quando mi sono ribellata a mio marito che gli trovavo la droga e quant'altro gliela buttavo, mi sono preso pure i calci nel pancione, 8 mesi, ho rischiato pure di perdere la bambina. Questo succedeva spessissimo, che io, mio marito mi dava bastonate per questo fatto. Il mio padre è emigrante di tempi lontani, si spostò per fare quel pezzettino di casa mangiando pane e cipolla nella nostra semplicità. Mio padre è un grande amico di Rocco Chinnici, il cui gli ha fatto pure degli appartamenti perché mio papà faceva il costruttore. Cioè noi vedevamo quest'uomo grande, recluso, sempre con questi uomini di scorta, e mio padre ci raccontava che questa persona per fare il suo lavoro era limitato nei suoi movimenti. Poi ho avuto modo di stare con Paolo Borsellino, che è una persona eccellente. Io dico perché non riesco ad accettare che lui non ci sia, perché grazie a questa cosa io riesco ad andare avanti, grazie ai suoi insegnamenti di lealtà, giustizia. Quando io scrivevamo i verbali per poi istruire i processi e c'era la mia bambina, gli comprò la bicicletta, nel piazzale dei carabinieri giocava insieme alle mie scorte. Io lì non ho trovato il giudice, io non ho trovato il carabiniere, io lì ho trovato la mia famiglia. Queste cose sono molto importanti per un testimone, nella tragicità di tutto quello che lasci, casa, affetti, tutto. E poi ovviamente nel momento in cui c'è stata la strage di Via D'Amelio, tutto questo per voi è venuto meno, tanto che è proprio allora che tua cognata Rita Atria decise di togliersi la vita. Rita nella vita ha avuto tre grandi affetti. Uno era il padre, uno era il fratello, anche se erano mafiosi, per lei erano le sue stelle. E l'altro era Paolo Borsellino, infatti le chiamava le mie tre stelle. Nel momento in cui venne ucciso Paolo Borsellino, che aveva segnato la sua rottura con la mafia. Perché lei accettava poi che erano suo padre e suo fratello, ma non accettava più che erano stati dei mafiosi. E aveva visto quest'altro grande padre come persona che la indirizzava su una nuova strada, su una vita nuova. In quel momento gli è venuto a mancare questa forte presenza, anche se c'ero io. Quando morì Paolo Borsellino, le parole sue sono state: finito tutto. Secondo me in quel momento aveva deciso di farla finita. Quando noi venivamo trattate dalle persone del servizio centrale protezione come persone diverse, lei come la figlia del ma boss mafioso, io come persona che non aveva mai avuto a che fare, diciamo, come famiglia la mafia, e gli atteggiamenti si vedevano che erano diversi, pure che sono la rassegnazione delle case. Invece io penso che i testimoni siamo tutti uguali. Testimone di giustizia del 1991, Pier Aiello, dopo anni di battaglia contro la mafia, si è rifatta una vita, una famiglia, un lavoro in una località segreta con una nuova identità. Ma ad aprile la sua copertura è saltata e Piera si è ritrovata di nuovo nel limbo delle due esistenze, sotto la paura di minacce della mafia che non scorda chi l'ha tradita. Di tutto questo ha informato il Servizio Centrale di Protezione e c'è stata anche un'interrogazione parlamentare cui fa seguito una risposta del sottosegretario agli interni Alfredo Mantovano, che mobilita la prefettura della città di residenza di Piera perché lei ora, scrive, è un ex testimone. Alla fine, dopo 40 giorni di ansia e di amarezza, ci dice, il 4 maggio viene di nuovo messa in sicurezza mentre aspetta l'esito delle indagini sui due carabinieri che avrebbero svelato i segreti della sua nuova identità. Lei cominciò nel momento in cui fu ucciso suo marito. Suo marito apparteneva ad un ambiente malavitoso. Io sinceramente mi ero fatta condizionare prima. Avevo sposato un delinquente, grazie a un boss mafioso che era mio suocero. E già mi avevano condizionato la vita per 10 anni. Non potevo farmela condizionare ancora perché non riuscivo più a vivere in quell'ambiente. Non avrei mai fatto crescere mia figlia in quell'ambiente. Fra tutti i mali ho scelto il minore, cioè di andare via. Andare via e di ricostruire una vita difficile, tutta in salita, ancora adesso è ancora in salita, però con una consapevolezza che finalmente sarei stata me stessa, finalmente avrei avuto la coscienza pulita, anche se non avevo fatto niente, però io mi sentivo sporca in quell'ambiente. Finalmente con la consapevolezza di fare qualcosa in cui credevo, io nello Stato ci credo, ma ci credo fermamente. Se tornassi indietro, rifarei tutto, magari con qualche piccola sfumatura, magari fidandomi delle persone giuste, però rifarei tutto. Che cosa vuol dire essere stata la moglie di un mafioso? Lei ha raccontato anche delle armi che circolavano e lei sapeva in che cosa era coinvolto suo marito? Sì, sapevo tutto, però io vivevo questa cosa passivamente. Molte cose che sono successe, che ho raccontato, io le ho apprese dopo che poi scrivevo sul diario quando mio marito me li raccontava, ma tutto ciò che io ho vissuto, l'ho vissuto per derelato, diciamo. Non potevo mai accettare che andavano ad ammazzare una persona, io non potevo accettare che c'era la droga, io non potevo accettare. Perché io dico una cosa, mio marito aveva 27 anni quando è stato ucciso e mio suocero 45. Dico, erano delinquenti, no? Mafioso o non mafioso, erano comunque delinquenti. Ma anche il più brutto dei delinquenti che sia, nessuno ha il diritto di togliere la vita a nessuno, c'è solo il Padre Eterno. E questo diario non aveva paura che suo marito glielo scoprisse? In fondo lei appuntava cose che poi infatti sono stati poi anche insomma utilizzati nei processi. Ma io non ho un diario, io ne ho uno per ogni anno, sono tanti, sono un bel pacchetto, perché comunque anche adesso io ce li ho. Non avevo pure perché riuscivo a nasconderli bene, almeno su questa cosa ci riuscivo, perché a parte il fatto che non li tenevo neanche in casa mia. Per voi è stato, ha avuto soprattutto un valore simbolico avere lei, il suo nome, come presidente dell'associazione Rita Atria. Un valore simbolico anche considerando la storia anche dopo la morte di Rita Atria, pensando anche alle vicende che ci sono state intorno alla sua lapide. Ha voluto rappresentare anche una forma di, diciamo, risarcimento. Sì, quando è successo il discorso della tomba di Rita, che la madre ha martellato la foto, penso che quelle martellate erano rivolte a me. Quella foto con quel libro dove c'era scritto La verità vive, l'avevo fatta fare io. E la madre di Rita non è un mistero, ce l'ha con me perché lei pensa e punta il dito perché dice che sono stata io a convincere la figlia a testimoniare, quando che in realtà ero io a dire alla figlia stai attenta, vedi quello che devi fare, perché siccome le privazioni sono talmente tante e una ragazza di 17 anni non è facile adeguarsi come una persona come me, anche se ero piccola d'età, però io già ero mamma, avevo una bambina, era diverso, una situazione completamente diversa. Lei ce l'aveva con me a morte per su questa cosa e ha distrutto quel libro, ma io penso più che altro per proprio quelle martellate, me le sentivo tutte addosso io come una vendetta nei miei confronti. E quindi anche adesso questa sua presenza come presidente dell'associazione per lei rappresenta anche un punto finale, no? di questa battaglia personale, o ha avuto lei anche qualche segnale che invece non era stata gradita questa sua, non so, dai familiari ancora della famiglia Atria? Le uniche persone che non gradivano che io diventassi presidente dell'associazione antimafia era la commissione, che al momento in cui io sono diventata presidente dell'associazione antimafia Rita Atria mi volevano rievocare i documenti. Ho atti scritti dove dicono che devo decidere se essere Pieraiello o quella che sono attualmente. Siccome il mio nome di Pieraiello non è mai stato tolto perché non lo possono togliere, perché è un diritto costituzionale, le nuove generità io non ci rinuncio, ma se lui mi dice che proprio ci devo rinunciare, definisca almeno una delle due situazioni, perché lui non ha definito mai la situazione di Pieraiello e manco di quella di adesso. Cioè, definisse una delle due situazioni, così io posso vedere chi sono in realtà. Per una questione di sicurezza, per quale ragione le dicevano che non poteva essere presidente dell'associazione? Ragione di sicurezza. Loro mi dicevano così, ma perché? Mica nell'atto costitutivo dell'associazione c'era la mia fotografia, oppure abbiamo messo i manifesti. Fino a prova contraria, ad oggi, non è mai uscita una mia foto. Sinceramente, per tanti anni ho tenuto io il documento di Pieraiello, forse arbitrariamente, non è mai successo niente. Da quando loro hanno i documenti sono stato scoperto pure dove abito, non so insomma se questo sia, non lo so, il fato che l'abbia voluto. Però fino a quando io avevo i documenti non è successo nulla. Adesso, avendo loro i documenti, vengo scoperta nella località dove risiedo. Una vita al fianco e in memoria dei testimoni di giustizia. Questa è la missione che ora Pier Aiello si è data e insieme all'associazione Rita Atria ha contribuito all'apertura delle indagini sulla morte di un'altra giovane donna colpevole di essere stata testimone, Graziella Campagna. Rivedevo in Graziella un'altra ragazza come Rita, che è stata uccisa sì dalla mafia ma più che altro dalla solitudine, perché il caso Graziella Campagna era stato chiuso. Non era giusto non dare un senso, cioè, di capire cosa era successo veramente a questa ragazza. E voi avete portato all'attenzione anche la presenza di un funzionario che prendeva un caffè con un latitante? Sì, diciamo che abbiamo scritto determinate cose. La cosa più bella è stata quando hanno riaperto il caso e abbiamo gioito. Al fianco delle vite difficili dei testimoni di giustizia, ora c'è anche la musica, questa in sottofondo di Fabrizio Barchetta, che con la sua canzone Sorrita fa commuovere Pier Aiello. Quando lui canta questa canzone mi vedo Rita sul palco che grida dicendo allo Stato: dove sei? Dove stai? Noi siamo qui. La voce di Rita arriva nel cuore dicendo: noi testimoni siamo persone che non abbiamo colpe, perché ci hai abbandonato? Lo Stato non c'è. Se non avesse fatto questo sacrificio, penso che, come tanti testimoni, sarei un'ombra. Molti testimoni non ci sono. Dal 91 al 91 al 96 non sono stata nessuno, non ho avuto documenti di copertura, io ero un'ombra. E molti, anche se hanno i documenti adesso, sono comunque delle ombre, perché non hanno voce in capitolo, non gli danno modo di andare neanche, anche il semplice fatto di andare nelle scuole, parlare con i ragazzi, ti senti in contatto con le persone, esprimi ciò che pensi, è una cosa bellissima. È così lo stesso la musica. Io quando ho ascoltato il CD di questo ragazzo, guarda, senti dentro al cuore una pesantezza, ma nello stesso momento voglia di vivere, mi dà voglia di vivere.